che illuminano delle strade e utilizzare questi pali come qualcosa che riescono a monitorare, per esempio, che ne so, i parcheggi liberi che ci sono nelle vicinanze. Va bene, questo solo per darvi l'idea in generale. Però qui le cose possono essere differenti a seconda di che tipo di reti di sensori si utilizzano. E per parlare di questo ho qui con me Luca Ascari. Buonasera Ascari. Buonasera. Della società Enesis, voi avete sviluppato una particolare rete di sensori che si chiama Bisper e qui insomma c'è la differenza da fare. E mi rivolgo in particolare a tutti coloro che hanno a che vedere con le pubbliche amministrazioni perché c'è una bella differenza in termini di costi. Ci spieghi Ascari. La grande differenza che ha Bisper rispetto ad altre architetture è il fatto che crea da sé la propria infrastruttura, non ha bisogno di nessun tipo di infrastruttura, nemmeno della corrente elettrica, perché ogni nodo è a batteria e ogni nodo riesce a fare da ripetitore per gli altri nodi, in modo che la rete si adatti automaticamente alla topologia del luogo. Un'altra grande caratteristica molto importante è la possibilità di aggiungere nodi, sensori diversi in un secondo tempo, senza dover distribuire una nuova rete. Per esempio è possibile misurare in un secondo momento l'anidride carbonica e poi aggiungere un sensore di un inquinante particolare oppure decidere di monitorare il rumore in un quartiere intero, in una città intera. Mi faccia capire bene Ascari, lei dice se si mette giù una rete di sensori che serve a monitorare la CO2 e poi dopo un po' si vuole monitorare qualcos'altro, bene, o quella rete è in grado di evolvere facilmente, cioè basta fare pochissimo e si aggiungono gli altri sensori automaticamente, oppure bisogna ripartire da zero, il che vuol dire che ogni volta si hanno dei costi nuovi. Proprio per questo, infatti, nel nostro caso, supponiamo che una città decida di dotarsi di una rete di monitoraggio del rumore, oppure del PM10, e distribuisce 10-20 sensori. Poi a un certo punto decide di misurare anche il rumore, è sufficiente per questa amministrazione acquisire a noleggio, quindi senza nemmeno acquistarli, ma proprio acquisire da noi con un contratto di noleggio, solo i sensori di rumore, che vanno tra l'altro ad irrobustire la rete di monitoraggio che è già presente. Quindi grandi vantaggi in termini di costi e di manutenzione. In particolare, purtroppo è un problema che abbiamo di questi tempi in modo particolarmente acuto, voi avete anche un monitoraggio di quelle che possono venire fuori, insomma delle crepe che si creano per terremoti, per esempio, per smottamenti nelle città. Sì, in questo caso ci rivolgiamo direttamente alle pubbliche amministrazioni con un intento ben preciso, fornire un servizio di monitoraggio distribuito ed estremamente capillare delle fessurazioni degli edifici, bypassando tutta la catena che normalmente è fonte purtroppo di speculazione. Noi riusciamo ad offrire a costi estremamente competitivi, si parla di pochi euro al mese per ogni nodo di monitoraggio, questo servizio che permette quindi al comune che si trova una mappa dove sì, si sovrapporta il territorio, certo, lo stato di salute delle varie case, delle varie crepe, di organizzare meglio il lavoro della pattuglia tecnica di sopralluoghi per verificare in loco soltanto le situazioni che ne hanno effettivo bisogno. Grazie Luca Ascari e buon lavoro. Prego, buon lavoro anche a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. James Flynn, filosofo americano, ha scritto due libri intorno al quoziente di intelligenza e su questi libri non ancora pubblicati in Italia ha scritto Gilberto Corbellini. Buonasera Gilberto. Buonasera. Editorialista stabile su molte attività pubblicistiche, in particolare sul domenicale del Sole 24 Ore, e tu hai scritto proprio un articolo, Istruzioni per diventare intelligenti, un paio di settimane fa sul domenicale, recensendo questi due libri di James Flynn che sono dedicati al quoziente di intelligenza. Una prima cosa che ti chiedo al volo e rapidamente, probabilmente è girata abbastanza questa idea nel tempo, direi negli ultimi 30 anni, 40 anni, che il quoziente di intelligenza non fosse invece particolarmente misurabile. Qui invece si può sostenere che in un certo modo è un indicatore utile. Sì, il quoziente di intelligenza è un indicatore quantitativo utile perché empiricamente rileva una capacità generale, cioè rileva un fattore che è l'intelligenza, che poi è composto di tanti

verranno scoperti da qui a quando Cheops sarà posto in orbita, e di questi pianeti che conosceremo a quel momento, in molti casi noi conosceremo la massa dei pianeti, però non ne conosciamo la dimensione. La dimensione è un parametro che si può ottenere solo in modi molto particolari. Uno di questi è quando abbiamo l'opportunità di vedere uno dei pianeti passare davanti alla sua stella. In questo caso praticamente la luce della stella fa un po' una scansione della dimensione del pianeta, perché varierà la luce, diminuirà di pochissimo, ma noi cerchiamo proprio quella traccia, quella piccola variazione, per misurare la dimensione del pianeta. Allora, quando conosciamo insieme la dimensione e la massa, abbiamo conosciuto la densità. La densità è la massa diviso il volume. E quindi a quel punto possiamo dire se è un pianeta tellurico, cioè un pianeta simile alla Terra, se è un pianeta che ha anche dell'acqua, oppure se è un pianeta gassoso come quindi per esempio Giove. Degli elementi di cui è costituito. E possiamo inserire gli elementi. La prima misura è una misura sulla densità. Il passo successivo è poi analizzare l'atmosfera di questi pianeti, che è una cosa che Cheops può fare in parte può essere fatto da Terra, e poi con altri gli strumenti dallo spazio, come il satellite della NASA che dovrebbe essere in volo nel 2018, che si chiama James Webb Space Telescope, e che andrà a soppiantare il famosissimo Hubble Space Telescope, ormai in orbita da 22 anni. Ecco, e invece quello di cui stiamo parlando, Cheops, quando verrà lanciato in orbita? Cheops è previsto che voli nel 2017, alla fine del 2017. È quindi un piccolo satellite, e quindi anche i tempi di sviluppo sono molto rapidi. Ecco, quando sì, lei dice sono molto rapidi, però immagino che per un ascoltatore il 2017 sembri un tempo piuttosto lungo, invece è vero. C'è da fare molto lavoro. È vero, però tipicamente i tempi di realizzazione di una missione spaziale sono dell'ordine di 10 anni, dal momento in cui si pensa al momento in cui si riescono a portare in orbita. Va bene, grazie Isabella Pagano. E in bocca al lupo per la missione. Grazie. Quante cose avremmo potuto ancora raccontarvi parlando di scienza, mille altre, ma non c'è stato più tempo. Tempo tiranno. Vi ricordate cosa diceva Hector Berlioz, grande compositore di musica? Il tempo è un grande maestro. Peccato che uccida i suoi allievi. Buona settimana a tutti, ci sentiamo qui fra 7 giorni.